Dialogo quarantunesimo. Raccontò Anas. Un uomo disse all'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, dammi un consiglio. L'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, rispose dicendo, intraprendi un'azione con determinazione. Se vedi che i risultati sono buoni, allora continua. Ma se temi di sbagliare, allora smetti.